Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Pulire un archivio è una faccenda piena di sorprese. Le carte d'identità scadute da mettere in ordine, per esempio, erano un viaggio nella moda e nei volti delle persone, nell'abito buono, a partire dal 40 in poi. Imitazioni di stili da Bogart a Madonna, passando per baffoni e capelli lunghi. E poi documenti del Monte di Pietà, una mappa del Settecento e lui. Sotto uno scatolone sfatto, dentro una scatola ancora più sfatta, c'era Pio. Sono Emanuele di Amandola, ho 33 anni e sono un ragioniere contabile, informatico, grafico, falegname e di tutto un po'. Un'estate sistemavo la cantina. Scoprì che mio zio Domenico, fratello di mio nonno, oltre che ad essere un ordinato e preciso imprenditore del legno, in gioventù fu sergente furiere del Regio Esercito, arruolato con diverse licenze lunghe o corte per più di 10 anni, dal 34 al 45. Luca. Io sto purtroppo svuotando la casa dei miei genitori. Apparteneva alla mia famiglia da almeno 200 anni. Nessuno di noi ha intenzione di andare a vivere lì, quindi lo svuotamento è radicale. Ho trovato rogiti, assicurazioni, documenti, tutti rigorosamente scritti a mano con perfetta calligrafia, al limite del ridicolo. Ho trovato testamenti, olografie talmente dettagliati che mi sembrava di vedere la faccia di chi scriveva. Ho trovato decine di lettere e biglietti d'amore inviati da mio padre a mia madre. Carte d'identità, patenti con dentro la scorta emergenze in lire, lastre fotografiche e più recenti foto ovunque, in ogni posto, dove nessuno aveva mai guardato. È un lavoro duro, ma è fantastico. Susanna. C'è vita anche nei vostri cassetti. Se li aprite, se avete voglia di prendervi del tempo, magari anche adesso, se siete a casa, in ufficio è difficile, però se siete dalle parti di casa vostra, se siete in casa, se state per tornarci, provate a fare questo sforzo. È la cosa che Emanuele ha dovuto fare e che ci ha raccontato non per piacere, l'ha fatto per lavoro, come servizio civilista, come obiettore di coscienza nel suo caso. Provate a pulire gli archivi di casa vostra. Non ci sono degli archivi in casa, ci sono dei cassetti di solito. O magari i cassetti di casa dei vostri genitori, le scrivanie o le cassettiere o gli archivi lasciati nelle cantine o nei garage. Lì c'è una vita che è molto più vera, molto più simile al vero di quanto la nostra memoria in realtà ricordi. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:10 in punto dell'ultimo giorno d'inverno, è mercoledì 20 marzo del 2013. La storia di oggi parla di Pio, che detto così sembra una cosa priva di senso, e in realtà Pio è un personaggio, perdonatemi, è una persona che è realmente esistita nel comune dove Emanuele era a fare il suo servizio civile, però molti molti anni prima. Era un prete e da quello che lui trova, dagli incartamenti che trova nei vecchi archivi, la figura che viene fuori di questo personaggio, perdonatemi ancora, di questa persona, è che era semplicemente un essere umano, che è una cosa molto semplice da dire e da immaginare, ma lo è di meno quando si pensa alle persone che non ci sono più, che appartengono quindi al passato. Provate banalmente ad immaginare quello che si dice di un vostro trisavolo, ad esempio. Rimangono quelle 3-4 cose, no? Che erano una persona molto importante, o che era una persona semplice ma che aveva queste caratteristiche di umanità, oppure che era una persona orribile, no? Rimangono, diciamo, dei grandi punti che focalizzano questo essere umano, questa persona. Però quando poi apri un cassetto e trovi uno scritto, trovi una fotografia, trovi un bigliettino, viene fuori che queste persone erano semplicemente delle persone che fossero vissute 20 anni fa o 200 anni fa. 349-238-6666. C'è vita nei vostri cassetti? Che tipo di vita avete trovato? Io, ad esempio, quando è mancata mia nonna, nel mese di dicembre, sono poi passato a casa sua, e in un cassetto ho trovato una cosa che in realtà avevo già visto in casa di mia nonna in giro, che è una croce al valore militare che è stata data a mio nonno quando era nella guerra, era tornato ferito. E vabbè, cioè, diciamo, l'impaginazione è quella comune a tutti: croce al valore militare, al caporal maggiore, terza artiglieria celere, Villani Antonio di Giovanni da Trecate. E poi c'è la motivazione: capopezzo di batteria sottoposta a tiro nemico che produceva perdite fra i serventi, continuava impavido a sparare sui carri nemici irrompenti fino alla completa inutilizzazione del pezzo. È in Algazala 13 dicembre 1941. Questa in realtà appartiene alla prima categoria, no? Delle grandi cose fatte da mio nonno, però sono sicuro che prima o poi troverò dei pezzi di vita più realistici e sconosciuti di mio nonno e di mia nonna in giro nei loro cassetti, quando avrò il coraggio e la voglia di farlo. 349-238-6666, la vita nei vostri cassetti, nei cassetti di casa vostra. Questa che stiamo per raccontare è la storia di Emanuele, ma in realtà è la storia di Pio. Era una giornata come le altre e mi ero svegliato alle 7. Alle 8 ero scivolato oltre il pesante portone del comune e mi ero seduto alla mia scrivania. Facevo il servizio civile. Il tempo di spostare qualche carta ed ero salito in archivio. Gli archivi comunali sono un interessante miscuglio tra una soffitta, una biblioteca e un robivecchi. In quello del mio comune ci sono quadri del 600, ci sono cassettoni con ancora dentro i vestiti di un monsignore, documenti, pergamene del 200, libri del 500 e poi lui, Pio. Negli anni 70 il comune era stato spostato nella nuova sede e il tempo per sistemare l'archivio non era stato trovato. Così, quando era finito nei paraggi un servizio civilista appassionato di storia, gli era stato detto semplicemente: c'è l'archivio da pulire. La passione per la storia ce l'ho sempre avuta, fin da quando ho scavato intorno a casa mia per vedere se c'erano gli resti di cose romaniche. Avevo 6 o 7 anni e siccome avevo letto, mi avevano detto di alcuni inglesi che scavando in una casa avevano trovato resti romanici, ho deciso di farlo anch'io, ma non ho trovato niente. Pulire un archivio è una faccenda piena di sorprese. Le carte di identità scadute da mettere in ordine, per esempio, erano un viaggio nella moda e nei volti delle persone nel loro abito buono, a partire dai 40 in poi. Imitazioni di stili da Bogart a Madonna, passando per baffoni e capelli lunghi. E poi i documenti del Monte di Pietà, una mappa del 700 e lui. Sotto uno scatolone sfatto, dentro una scatola ancora più sfatta, c'era Pio. Era nascosto tra polvere, cartone e ricordi, in firme brevi e a volte molto arrabbiate. Io ero arrivato nella mia nuova casa a Monte San Martino il giorno dopo gli orali della maturità e quando avevo iniziato a conoscere quel piccolo paese di 800 persone lo avevo fatto cercando di capire la sua storia, nata con una cessione di terre e con un corpo che galleggiava lento lungo il fiume Tenna. Quando avevo iniziato il mio periodo di servizio civile nel comune, la mia curiosità mi aveva portato a conoscere degli eventi, i luoghi e le date. Sapevo gli eventi e le date, appunto, ma solo in bianco e nero. Con Pio, invece, vennero fuori le persone, i colori, i pettegolezzi. Per capirci, Pio era un prete dei primi anni dell'Ottocento, che con una prosa pomposa scriveva alla sorella Teresa, sposa di un notaio di Monte San Martino. Il suo fascino ai miei occhi non era nell'antichità delle lettere, che per me, che volevo diventare medievista, tutto erano praticamente postmoderne. Ma in realtà l'interesse stava nelle vite che balzavano fuori da quello che lui scriveva. I luoghi intorno a me hanno preso nuova vita, diventando quelli dove Pio raccontava a Teresa della sorella Vittoria, la sedotta Vittoria, o quando era più arrabbiato, la Vittoria dal cervello torbido, rea di volere vivere una vita al passo coi tempi, spillandogli i soldi per i vestiti. La strada che faccio per arrivare a Fermo è la stessa che faceva Zucchino, il suo servitore. Quella che Zucchino aveva percorso sotto la pioggia per portare a Teresa 2 piccioni e riceverne in cambio una botticella di rosolio. Se qualcuno tra qualche anno trovasse i miei documenti, le mie lettere, probabilmente risulterei una persona molto meno disequilibrata di quanto io sia, nel senso che io al momento riesco a tenere tutto in gioco, mentre invece leggendo delle mie lettere risulterebbero tantissime passioni ma pochissime conclusioni. Pio per me è una finestra sulla storia, una persona reale, con tutti i difetti che emergono dalle lettere. Arrivista, antipatico, avaro, pettegolo e permaloso. Scrive del matrimonio segreto riparatore della sedotta Vittoria. Chiede soldi da usare per ottenere una carica più elevata. Si arrabbia quando Teresa non può andare da lui, scrivendolo: «Cessate dunque di chiamarmi col nome mentito di fratello. Avete piantato in maniera inesorabile lo stendardo della discordia nel mio cuore». E nonostante i suoi difetti, io ne sono rimasto affascinato. Un prete che, al chiarore della sua lampada a olio, parlando degli inganni che Vittoria sta ordendo alle sue spalle, scrive: il tempo della mia minchionaggine è finito. Si disinganni se può, e più non dico. Adesso, dopo qualche anno dall'avere trovato le lettere, sto cercando altri documenti dell'esistenza di Pio. Vorrei portare un fiore sulla tomba di chi mi ha portato ad amare questi luoghi, anche per quello che sono stati, oltre che per quello che sono diventati. Mack Smith diceva che il bello della storia è sapere che in un posto, prima di te, sono passate altre vite, altre persone. In altre parole, prima di noi, qui c'era Pio. C'è vita nei cassetti di casa nostra, l'ho sempre sostenuto. E non nel senso di scarafaggi o formiche, ma nel senso di cose che sono accadute, scordate e che non sono completamente scomparse. Come se qualcuno non avesse voglia di essere dimenticato, insomma. Come se il passato rimanesse attaccato al presente con le unghie, usando tutto ciò che può usare, anche solo un pezzo di carta scarabocchiato o una riproduzione del Colosseo comprata in una vacanza estiva a Roma. E non lo fa solo il passato recente, ma anche quello lontano secoli, come è accaduto a Pio, che a distanza di 200 anni ci vuole ancora dire che tra fratelli bisogna rimanere legati, se no uno ci rimane male, e che il rosolio vale sempre la pena. Quando si raccontano le storie delle generazioni passate, si forma spesso un clima di leggenda, per cui si tramandano storie di bisnonni che hanno conquistato da soli intere colline durante la Prima Guerra Mondiale, trisnonni che hanno scalato le tre cime di Lavaredo in pantofole, o di trisavole che hanno partorito mentre lavoravano nei campi e dopo una sola notte di riposo hanno ricominciato a mondare il riso, facendo pausa solo per allattare. In ogni famiglia, o quasi, c'è un documento o un quadro che assicura che ci sia del sangue nobile in noi. Una parte del nostro DNA ci suggerirebbe di prendere la spada e sfidare a duello chiunque ci desse fastidio. Ed è normale che si costruisca un'epica sui pochi dati di fatto che abbiamo a nostra disposizione. Nessuno in fondo vuole essere il discendente di gente qualunque, o peggio ancora di persone poco raccomandabili. Ognuno a modo suo vuole essere un po' speciale anche nella sua normalità. E però, quando si va a pescare in profondità, come è successo con Pio, si può scoprire, per esempio, che il parroco non era intento solo a pregare e aiutare il prossimo, ma anche a mescolarsi nelle vicende umane, a provare invidia, a provare odio e a commettere peccati come tutti. Insomma, era un essere umano. E così sicuramente i nostri bisnonni e i vari antenati di cui si raccontano le imprese, le cariche pubbliche o i talenti, magari erano solo delle persone senza particolari qualità o importanza. Sperando che non salti fuori qualcosa di strano, come a quel tizio di Siviglia che leggevo proprio l'altro giorno, che ha dovuto pagare non so quanti soldi per estinguere un debito di gioco di suo nonno che era appena morto. O peggio ancora, come quel concittadino a cui era stata intitolata una piazza perché aveva fatto costruire una scuola. E poi si era scoperto che la scuola l'aveva fatta costruire per comprarsi la giuria del processo che doveva condannarlo per aver ucciso un uomo durante una rissa. Il magistrato decise che l'assassino era abbastanza ricco da potersi comprare la libertà con la promessa di andarsene e non tornare mai più. Erano secoli fa. Lui donò tutto ciò che aveva e la città ebbe una nuova bellissima scuola, piena di libri e di stipendi per gli insegnanti, e soprattutto si liberò di lui. Quando passo per quella piazza ancora oggi, però, io non sono sicuro che sia stato giusto così. Ma forse certe cose del passato è meglio non saperle. Died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Se è vero che c'è vita nei cassetti di casa vostra o anche degli uffici, se sono uffici che sono lì da un po' di anni e voi ci siete finiti solo di recente, allora cercate di aprire quei cassetti e ritirare fuori le vite che ci sono lì dentro. Mi scrive... non si firma. Mio padre muore, io devo mettere mani tra le carte per l'eredità e ci trovo delle buste con dentro dei tappi. Appartenevano ai Brindisi che fece alla nascita di figli e nipoti. Questo mi ha lasciato essere fatta e ho cambiato il giudizio che avevo di lui. Oh, Miriam dice: fatte pulizie pasquali. Esistono ancora le pulizie pasquali? Cioè che a Pasqua si fa la pulizia? A Pasqua, perché cioè, pulizia di primavera in sostanza. Fatte le pulizie pasquali, trovate fotografie, lettere bellissimo. Ogni anno un'avventura. Miriam scrive proprio stringate, come se fosse un come si dice? Vabbè, avete capito. Vabbè. E in un cassetto della mia ex tata morta, della mia ex tata, insomma, che è mancata qualche anno fa, ho trovato una lettera di uno spasimante, antica, commovente, piena di frasi dolci, ma con rispetto. Marco, 349-238-6666. Se avete scoperto della vita che non conoscevate, nei cassetti, negli armadi, negli archivi di casa, ufficio, cantina, 349-238-6666. Emanuele le ha trovate non in casa, non in un ufficio, ma nell'archivio del comune. Pronto, Emanuele? Pronto. Ciao, come stai? Tutto bene oggi. Oggi tutto bene, nel senso che domani non sappiamo. Ma domani spero meglio. Dove sei esattamente, Emanuele? Sono in ufficio, a Pollenza. Che lavoro fai? Diciamo che la mattina faccio il contabile, il ragioniere e il grafico. E il pomeriggio? Il pomeriggio l'informatico è quello che capita. Ma scusami, il tutto per un unico datore di lavoro o team? No, la mattina sono socio di una cooperativa e il pomeriggio faccio il freelance. Mi ripeti il nome del luogo dove lavori, dove vivi? Io vivo ad Amandola, che è vicino a Monte San Martino, quel paesino in cui mi sono trasferito. Ok, quindi parliamo dei luoghi dove ci ha raccontato la storia. Sì. Siamo in provincia di? Provincia di Macerata, diciamo, lungo la valle del Tenna. Ma tu sei marchigiano? No, io sono della bassa Lombarda, mi sono trasferito nelle Marche quando avevo 4 anni. Ah, ok, quindi con la famiglia, insomma, non sì. Per motivi tuoi. Però non hai niente dell'accento marchigiano. È successo. È capitato esatto. Anche ai migliori. Ma è vero che le Marche sono la nuova Umbria? Non questa lo so, è una roba vecchia che si dice che l'Umbria aveva nuova Toscana, le Marche non aveva Umbria. Sicuramente meritano moltissimo. Torniamo in quell'archivio. Quanti anni fa eri in quel comune a fare il servizio civile? Era il 2006. Quanti anni avevi? Avevo 26 anni. Sei lì, insomma, hai una passione per la storia, lo accenni, insomma, lo fai sapere, quindi ti dicono c'è l'archivio da sistemare. Esatto, sì. Dimmi qual è stata la prima cosa che hai trovata di Pio? La prima cosa di Pio è stata trovata la lettera della minchionaggine. Che ci ripeti cosa diceva della sua... parlava della sua minchionaggine, giusto? Sì, per la precisione diceva il tempo della mia minchionaggine è passato. E in base a cosa era chiuso all'epoca della minchionaggine? Perché questa sorella Vittoria che cercava di mettergli tutti contro all'interno del paese, pare anche nei paesi vicini, praticamente gli dice adesso basta, non sopporterò più queste... Ah, ok, è come se dicesse adesso basta fare il picciu, che esatto, è molto piemontese, esatto. Non so se arriva dappertutto, basta con questa roba, adesso cambio e divento una persona. O fa come dico io oppure ne subirà le funeste conseguenze. Di Pio noi abbiamo solo testimonianze scritte, c'è qualcuno che si ricorda di lui, ti è arrivata? No. Ho trovato solamente l'atto di morte del nipote Vittorio, che viene citato nelle lettere. Ma ancora di suo non ho trovato nulla. Qual è la parte umanamente più bassa di Pio? È questa... non saprei neanche come descriverla, però è ovviamente questo modo orribile di scrivere verso i fratelli, la sorella, questi rapporti che sono veramente bassissimi. Quando la sorella Teresa, quella a cui scrive, non lo va più a trovare per qualsiasi motivazione, la bandisce dal suo cuore, quindi perché ha fatto un torto impressionante. Che cosa vorresti che fosse trovato nel cassetto, nel tuo cassetto, dai tuoi nipoti, pronipoti? Probabilmente qualcosa che mi faccia apparire un po' migliore di quello che potrei essere. Emanuele, ti ringrazio e ti faccio tornare al tuo lavoro. Grazie per la storia. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. siete qui. Voi siete qui. È in cima a un monte, Emanuele, che in realtà più che un monte sono delle gole, che Tiziano dice essere le gole, me le ripeti, le gole dell'infernaccia. Potrebbero essere le gole dell'infernaccia. Lo chiediamo direttamente a Emanuele, se ce lo conferma, oppure a chiunque stia passando dal sito di Radio 24, sulla pagina di Voi Siete Qui, si va a vedere la fotografia di Emanuele e magari se conoscete le gole dell'infernaccia ce lo confermate. Comunque in cima alla montagna, è estate, lui ha su un maglioncino, non deve essere una montagna molto alta perché è in borghese, direi, sembra vestito da quotidiano. Ha la barba un po' incolta, i capelli corti e degli occhiali che non si vede, sembrano spessi perché da dietro si vede che c'è qualcosa di molto ingrandito in fondo dietro alla sua testa passando per la lente. Il cielo è azzurro, un po' striato di nuvole e lui sembra felice. Archivio, sostantivo maschile. La raccolta ordinata e sistematica di atti e documenti la cui conservazione sia ritenuta di interesse pubblico o privato. Luogo in cui vengono conservati tali atti e documenti e i relativi uffici. In informatica, porzione di un'area di memoria contenente una sequenza di informazioni omogenee. File. Etimo dal latino archivum, dal greco archeion, archivio pubblico. Data metà secolo XIV. Se all'uomo in questa vita non ci incontro avventure, non ave niente da raccontare. Queste parole le ha scritte un signore che nel 1968 ha cominciato giorno dopo giorno a scrivere la storia della sua vita e l'ha finita nel 1975, dopo 7 anni. Si chiamava Vincenzo Rabito, questo signore, era un bracciante agricolo siciliano che era quasi analfabeta, eppure lui si è chiuso per 7 anni in una stanza e digitando sulla sua vecchia Olivetti le parole che raccontavano la sua vita ha scritto questa autobiografia che per l'esattezza è di 1027 pagine a interlinea zero, cioè non c'è un centimetro di margine, ci sono delle immagini di questo manoscritto, non c'è un centimetro di margine né sopra né sotto né laterale, e l'ha messa in un cassetto. Dopodiché questo signore è mancato e suo figlio, guardando la sua scrivania, ha trovato questo manoscritto di oltre 1000 pagine, l'ha consegnato credo a un archivio di diari, e adesso questo libro è stato pubblicato da Einaudi nel 2008, mi pare, nel 2007, scusatemi, è veramente una selezione, non ci sono tutte le 1027 pagine. Si chiama Terra Matta questo libro, lui si chiama Vincenzo Rabito ed è Orabito. Pietro La Corte, sei siciliano? Non lo sai. Vabbè. Insomma, a proposito di cose, di vite trovate nei cassetti, 349-238-6666. Oltre alle vite nei cassetti si trovano soldi. Delle volte, scrive Giorgio, io ho trovato 5 milioni di lire in un doppio fondo di un mobile antico. Ma se trovi 5 milioni di lire o anche solo 200 lire, le puoi ancora cambiare? Forse la Banca d'Italia. Forse la Banca d'Italia sta ancora in tempo di farlo. So, mi ricordo che c'era un limite, secondo me, Barisoni. Potete chiedere, perché c'era Sebastiano. Vabbè, più tardi, quando entra, ne parla direttamente lui. Secondo me ancora si può. Cioè, ci sarà mai un momento in cui tu avrai dei soldi inutilizzabili? 349-238-6666. Il diario di guerra di un giovane medico sul fronte del 15-18. Marco, però non ci dice dove l'ha trovato. E poi ancora, ho un'enorme curiosità di leggere le lettere d'amore con cui mio nonno, 18enne, conquistò mia nonna, 12enne. Ora sarebbe uno scandalo. Allora era un amore che dura da 50 anni. Spero di non trovare sorprese. Enrico da Vicenza. Enrico, però è proprio lì che stiamo dicendo. Cioè, sono le sorprese che vogliamo conoscere. Altrimenti un'idea già delle persone ce l'abbiamo. A questo proposito... grazie Tiziano. Dal set, grazie Margherita, immagino abbia cercato. Mi arriva di là dalla regia, come si diceva una volta, che dal 7 dicembre 2011 non si possono più cambiare le lire. Quindi quei 5 milioni spero siano prima di quella data, altrimenti sono carta straccia. È arrivata una mail al programma Voi Siete Qui, @radio24, ma arrivano anche al profilo Facebook, cliccate su mi piace, Voi Siete Qui Radio 24, potete vedere tutto quello che facciamo e magari contribuire a dire delle cose che avete voglia di raccontarci. Carlo mi ha scritto questa mail, che in realtà è una storia molto simile a quella di Emanuele. Lui fa il restauratore, è finito ad un'asta e ha trovato in una scrivania un sacco di roba. Caro Matteo, la storia di oggi avrei potuto scriverla io. Solo che il protagonista non sarebbe stato un frate, ma un vecchio sindaco di un paese vicino al mio. Di mestiere io faccio il restauratore e a volte i mobili che restauro me li portano i clienti, altre volte gli antiquari. Ma visto che a me piace molto andare in giro a cercare vecchie cose a cui ridare nuova vita, spesso sono io che vado a cercarli. 2 anni fa partecipai ad un'asta comunale in cui si vendevano tutti i mobili di un vecchio palazzo municipale che da tempo era in disuso, dal momento che il paese, essendosi spopolato, era diventato troppo piccolo e la giurisdizione era finita sotto il comune del paese limitrofo. Si vendevano vecchi armadi, archivi, tendaggi, perfino i lettini d'ospedale e materiale di infermeria, visto che molti anni prima, al primo piano dell'edificio, c'era stato anche una sorta di mini pronto soccorso. Il palazzo non era nulla di che e oggi si è trasformato in 4 appartamenti residenziali. Ma a quell'asta io riuscii a portarmi a casa un grande armadio in legno da archivista, delle sedie della giunta comunale e una scrivania. Magnifica, di quelle a doppia seduta, una di fronte all'altra, con tanto di doppia cassettiera e serrandina in legno, con piano d'appoggio in cuoio. La scrivania era il pezzo più pregiato e la lavorai per ultima. Quando ci misi le mani, mi accorsi che chi avrebbe dovuto sistemarla per l'asta non si era manco preso la briga di ripulirla e svuotarne i cassetti. Buttai via una marea di carta, vecchi documenti e faldoni, ma solo quando, dopo ore, riuscii ad aprire l'ultimo cassetto chiuso a doppia mandata, di cui però non c'era la chiave, trovai qualcosa di veramente interessante. L'ultimo sindaco del paese ci aveva lasciato tutta la corrispondenza con una donna che non era chiaramente sua moglie, ma di cui lui pareva molto innamorato. Le carte erano la brutta copia, spesso cancellata e riscritta, di lettere, piene di tenerezza e di rabbia, di desiderio e di addii. Lui le raccontava tutti i problemi che aveva a casa e con la cittadinanza. Si malediceva per aver scelto di fare il sindaco e poi però le raccontava delle manifestazioni importanti a cui veniva invitato. Nelle sue parole si leggeva tutta la debolezza e l'arrivismo di un uomo che non sembrava cattivo, ma solo fallace, come tutti. Ma la cosa più curiosa era che quella donna, cui lui faceva promesse che non manteneva mai, era una prostituta, forse l'unica prostituta della zona, per la quale provava una gelosia infinita. In quel cassetto ho trovato la parte nascosta di un uomo importante e rispettato dalla sua comunità, che scriveva cose che nemmeno in famiglia raccontava, così normale da innamorarsi come un ragazzino e così vanesio da tenere la brutta copia delle lettere scritte alla propria amante. So many days so long and now, why should it ever be this far? Where I get frightened, I could never gather birds enough to carry round your heart. But I see traces of your thoughts, I hear, I see a sight, I hear a sound. My only comfort in the brittleness of days when I can't hold what I just found. Ci confermano che sono le gole dell'infernaccio quelle nella fotografia sul nostro sito dove si trova Emanuele. In cima, mi spiega Andrea da Macerata, in cima alle gole dell'infernaccio vive un prete eremita che ci sta da Pasqua a settembre. Quindi tra 10 giorni lui ci sale e ci smonta dopo l'estate. Nel fondo, eccolo qua, questo. Si scoprono anche cose sulle persone che sono ancora vive, fortunatamente. Gentile Matteo, dopo che mia figlia Letizia è andata a vivere fuori casa, ho trovato nel fondo dell'armadio una lettera dove ho scoperto quando è stata la sua prima volta. Lori, bruciate tutte ste robe, ragazzi, prima di andare fuori di casa date fuoco. E poi c'è qualcuno che quasi romanticamente, come Alberto da Roma, lascia adesso oggetti sperando che siano ritrovati in futuro. Nel fondo del cassetto del mio comodino ho riposto il mio coltello scout. Sarei curioso di vedere la faccia dei miei figli quando la troveranno. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Pietro Lacorte e a Margherita Ina, grazie soprattutto a Stefano D'Andrea e a Emanuele. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.